Questa è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, come ogni lunedì, Disorder, dalle 21.30 sino alle 23 circa. Naturalmente c'è il sito internet che è www.ondarossa.info per chi volesse usufruire della musica e delle nostre parole attraverso un computer e quindi attraverso lo streaming. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. Ricordiamo l'urgenza e l'attualità della sottoscrizione e quindi il punto di riferimento principale è il conto corrente postale che è 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 Vire Volci 56 00185 Roma, ma comunque nel sito della radio si possono trovare anche le modalità più elettroniche. Cominciamo una breve serie di saluti. Maya e Nicola Locci dalla Sardegna, quest'ultimo come Stigmate e Hexagonal. Abbiamo qui a Roma Marco Bedini di Marasma Gandhi. Marasma Gandhi che andremo a sentire più avanti. Nadir Persegona di Os, progetto insieme a Diego Spinelli di Noise Drone, Doom Music, Doom Metal. Il Setual a Milano, il medico della peste, progetto industrial qui di Roma. Abbiamo anche Tabula Rasa da Cortina d'Ampezzo, un fedelissimo, al pari di Francesco Cornello da Bergamo, Flavio Derbecante di Noise Cluster insieme ad Arianna Degni Lombardo. Un grosso saluto anche a Marco qui a Roma, per cui noi si va ad iniziare e lo facciamo con una new entry, diciamo, qui nelle consuete playlist di Disorder. Sto parlando di un gruppo, diciamo, romano dal nome Tamura Kafka. Tamura Kafka alle prese con un nuovo lavoro uscito sul finire del 2020 che porta il nome di Sonny 451. È un progetto, diciamo, di che va, come dire, ad unire atmosfere molto particolari nel campo del neoclassico, della musica da camera, insieme al rock evoluto, al post-punk e anche all'elettronica. Quindi una miscela di suoni alquanto interessante e originale. Questo disco, appunto, si chiama Sonny 451, è una citazione, diciamo, letteraria, giacché è un personaggio di un libro al quale si sono ispirati il Tamura Kafka, ossia Clouds Atlas, un libro di David Mitchell. E quindi, diciamo, i testi, credo nella loro interezza, sono delle citazioni delle recitazioni dei passi stessi di questo libro. Per cui cominciamo con l'ascoltarcelo e ci andiamo ad ascoltare le prime tre tracce, ossia Prophetess, Six Myths e Una questione di amore. Avrebbe potuto essere altrove, avrebbe potuto essere altrimenti. Tutto questo spazio che non sarà mai un luogo, uno soltanto, tutto questo tempo che non sarà mai un momento preciso, confinato da un prima, da un dopo, fino a dove può arrivare la memoria. È solo il barlume tremante di cose già viste, di cose già dette e ripetute, oppure l'annuncio di cose che non smetteranno di essere, una scia che è la somma di tutte le scie, spumose, impertinenti, ricciolute scie, che fanno e disfano coincidenze ad ogni schiocco di schiuma, fanno e disfano verità imperfette, come come se esistessero parole imperfette, parole che dicano quando è cominciato il viaggio, quando pioverà, quando finirà la pioggia e quando ricomincerà, quanto mancherà a quello che hanno chiamato arrivo, se mai è esistita una cosa che possa chiamarsi arrivo. Parole che dicano altre parole, imperfette, inevitabili, come se non bastasse il buio della notte, la spugna del cielo che cola puntini di luce lontanissimi, come se non fosse sufficiente essere qui ora, come se ogni provenienza potesse trasformarsi in destino e declinare ogni leggerezza, ogni mistero, scrivendo confini dove gli occhi vedono soltanto orizzonti, inventando un disegno dove c'è soltanto il passaggio. Si accende, la notte lo spegne, vorace, e un altro giorno sboccia, prima di ripiegarsi docilmente e diventare ciò che smetterà di essere presto, ancora ed ancora. La fine è il contrario del terrore. Solo questo ho imparato, passo e resto, passo e resto, semplicemente passo e resto. Avrei potuto essere altrove. Avrei potuto essere altrimenti. Thank you. mentre il mondo setaccia le idee per te. Fai vela, cerca solo le acque profonde senza freni, esplora, io con te e tu con me, come i pellegrini che si arrampicano sulle colline in ginocchio. Se la gente ti loda non stai camminando sulla tua strada. Gli angeli piangono e una parte di me vuole che il viaggio non finisca mai. Perditi tra strade traballanti, tra canali ciechi, tra i cancelli di ferro battuto, i cortili disabitati. Vai avanti tra spire di mattoni coperte di vegetazione, sporgenze, panni stesi alle finestre, mulinelli rappezzati che ti risucchiano gli occhi, principi orologio e principesse scheggiate che battono le ore, colombe fuligginose e tre o quattro ottave di campane. Vai avanti, vai avanti. Una verità implausibile può servire anche meglio di una plausibile. Ovviamente è tutto qui, ma non è mai tutto. La gente è oscena. Meglio essere musica che una massa di tubi che triturano dei semi solidi per qualche decennio, prima di diventare così mal ridotti che non funziona più niente. Gli artisti sono puri e semplici scribacchini di pitture rupestri. Si fa arte solo perché l'inverno, l'inverno è eterno, e perché senza i lupi e le tempeste di ghiaccio ci azzannerebbero alla gola anche prima. Quando ti spogli delle credenze che ti hanno passato, trovi verità indelebili dentro di te. Roma andrà in declino e crollerà di nuovo, ma non resteremo morti a lungo. La mia nascita ricomincerà in un battito del cuore. Ho fatto domande. Benissimo, dunque abbiamo cominciato a fare conoscenza di questo secondo lavoro dei Tabula Kafka. Essa è un'altra domanda. Questo Salmi 451, giustamente Maya dice strumenti veri, come non si ferma. Se effettivamente fosse una neanche di fronte una cosa strana, ma sono tante le i progetti e le idee musicali che si servono di strumenti ancora acustici. Per sempre. Tabula Kafka, peraltro anche il nome del gruppo è uno spunto diciamo letterario tratto dal nome del protagonista del romanzo di Hakuri Murakami, Kafka sulla spiaggia. E risposta è dare un nome alle cose. Cose. E andiamo un po' a citare anche la formazione di questo diciamo gruppo allargato, perché di gruppo allargato effettivamente si tratta, è un collettivo allargato, chiamiamolo così, che comunque ha come base Massimo Baiocco, voce e chitarre, le tastiere ottimamente suonate, il theremin da Noemi Colitti, che vado a salutare. La cosa mi serve. Maurizio Bocco alla batteria, Josef Servino alla chitarra. Quello che credo di essere. L'ottimo violino di Pamela Gargiulo. E ora potrei stare vagando in un deserto senza appigli. Arriverei alla fine. Ma se Enrico M, sappiamo solo questa M, al basso. Poste, tutto questo non sarebbe sufficiente. Senza Poi, soprattutto nella dimensione larve, si servono di ballerini, eccetera, eccetera, insomma. Ogni coscienza ha un interruttore. Un disco è un progetto che albergherà parecchio nelle selezioni di Disorder nelle prossime settimane. Fioriranno soltanto mondi già fatti. Tabula Kafka, ricordiamo il primo lavoro uscì con il nome omonimo 4 anni fa. E dalla violenza. Anzi, ormai 5. Mentre questo secondo lavoro, questo Somme 451, appunto sul finire del 2020, attraverso, e la ritroviamo, Danze Moderne e Fonoarte, un'etichetta molto attiva che appunto ritroveremo più avanti nel caso di Marasma Gandhi. Quindi saluto Tabula Kafka e andiamo avanti. Lasciamo queste atmosfere un po' da musica da camera, da musica neoclassica, per arrivare alla Minimal Dark Wave di Marshall Kanto, che è il progetto americano. Si sono fatti vivi ultimamente con un EP abbastanza vasto, sono, se non erro, 7 tracce, dal nome Horizon Limited. Sentite intanto le progressioni rock di Tabula Kafka. Questo è un brano che ci ascolteremo nella prossima settimana. Tornando a Marshall Cantrell, dunque, da questo Horizon Limited ci ascoltiamo Remake the World e Fold. Erano dunque Marshall Cantorell, questo Horizon Limited, ultimo EP uscito anche questo sul finire del 2020. Al fiere principe della Minimal Dark Wave, Sean McBride americano, che abbiamo già apprezzato e che apprezzeremo presto anche come Xino and Ocklander insieme a Liz Wandelbu, lì evidentemente un duo che però fondamentalmente non si discosta poi di molto in fondo da Marshall Cantorell. Remake the World, Fold, queste due prime tracce. Intanto vado a salutare Asia, oltre che Maya di nuovo, e naturalmente Noemi York Colitti, l'ottima tastierista di Tamura Kafka, Jean-Claude Bertoin, quel della Val d'Aosta, Alessandra al confine con l'Abruzzo. Si va avanti invece, torniamo indietro nel tempo per ascoltarci un artista che ha ispirato molta di questa elettronica, anche se vogliamo Marshall Cantorell. Trattasi di Fat Gadget. E di lui ci stiamo gustando un The Best Of uscito nel 2001, che andava a riprendere i singoli e delle nuove versioni rispetto a quelle già uscite nei precedenti 4 album. Quindi eccola qua, Luxury remixata, un ennesimo remix, e poi Life on the Line in una version numero 2. Luxury.